Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel 2007 il principe Carlo d'Inghilterra in persona ha consegnato l'OBE, che è una delle massime onorificenze del Regno Unito, a un figlio della working class dello Yorkshire, un vero e proprio working class hero. Stiamo parlando di una terra che è una terra di miniere, di carbone, di industrie dall'acciaio, la città di Sheffield, che è famosa anche per produrre le migliori lame del mondo, ha dato i natali a questo figlio di Sheffield, ma anche dell'Inghilterra e del rock. È uno dei grandi eroi della musica degli anni 60, 70, 80 e 90, direi. Un grande interprete, un gallese dalla voce inconfondibile, rauca, rasposa, rude come le sue origini, profonda, malinconica come le sue interpretazioni. Insomma, sto parlando di Joe Cocker, la voce più blues mai donata a un uomo bianco. Non si può cantare il blues senza aver sofferto. È un'emozione, un modo unico per trasmettere un'emozione. E con gli anni, man mano che invecchio, mi rendo conto che è sempre più facile per cantare il blues. E il blues, come definire il blues? Diciamo che è uno stato d'animo ben preciso, una specie di malinconica visione della vita che sulle 12 barre, sui 12 quarti o i 12 ottavi, se preferite, insomma, si muove sinuoso. È un disincanto che contiene una speranza alla base del cuore di chi canta, cioè la speranza di arrivare a comunicare intimamente con chi è di fronte, la speranza di trasmettere un sentimento, perché il blues è tra le tante musiche, insomma, una di quelle con più sentimento dentro. E Joe Cocker è stato maestro in questo. E fin dall'inizio vi faccio ascoltare un estratto di una recensione del Rolling Stone scritta agli inizi della sua carriera. Sentite cosa dicevano di lui già da subito. Nonostante abbia solo 24 anni, la voce di Cocker è quella di un nero di mezza età del sud degli Stati Uniti. E la qualità principale della sua voce è quella di trasformare, come succede a Ray Charles, i testi e i brani originali, anche quelli più tradizionalmente spensierati, in espressioni sorprendentemente dolorose e disperate. Eh sì, questa capacità diventa per Joe Cocker un marchio di fabbrica e diventa la sua forza, la base della sua arte. C'è questo bisogno di tracciare un legame col mondo che lo circonda. Questo, insomma, è il motore che alimenta la sua voce. E all'inizio della sua vita, però, il destino che lo aspettava era apparentemente molto diverso. Era un figlio del proletariato inglese che aveva davanti solo un duro lavoro come operaio. Joe Robert Cocker nasce il 20 maggio del 44. La famiglia è modesta, il padre è un impiegato statale. Il nome Joe in realtà è il diminutivo di Joseph e non di John, e arriva dall'ammirazione del bambino nei confronti di un personaggio dei giochi della sua infanzia, che era Cowboy Joe. Cocker è un bambino allegro, ha molti amici e coi quali trascorre, come tutti i bambini di quegli anni, trascorre le giornate per strada. Ma fin da bambino la musica è la parte più importante della sua vita, una passione che lui condivide col fratello Victor, perché è con lui che si esibisce per la prima volta in pubblico a 12 anni. Victor lo invita a salire sul palco durante l'esibizione del suo gruppo di skiffle, ma nonostante questo iniziale insomma, il destino di Joe sembra non essere nella musica, almeno secondo l'opinione della madre Marjorie. Quando Joe lasciò la scuola a 16 anni, pensai che il suo destino sarebbe stato lavorare come operaio del gas. Gli regalai persino dei libri che parlavano dell'argomento e per un certo periodo sembrava interessato all'argomento, ma non ha mai abbandonato la sua passione per la musica. Mi disse che non voleva avere lo stesso lavoro per tutta la vita, al termine del quale avrebbe ricevuto giusto un orologio d'oro in premio. Marjorie, il nome della madre, ci sarà una canzone che Joe Cocker le dedicherà qualche anno dopo. Intanto però il problema è non rimanere tutta la vita operaio di installatore di gas. A 16 anni Joe forma la sua prima band insieme a degli amici e sceglie un nome d'arte, Vance Arnold. Si ispira a un personaggio di Elvis Presley nel film Jailhouse Rock. Me lo sono inventato, una cosa che per anni mi sono vergognato a raccontare. Ma a Sheffield tutti utilizzavano nomi finti come Johnny Tempest e i Cadillac. Noi ci siamo chiamati gli Avengers, i Vendicatori. E quindi i ragazzi mi dissero che anch'io mi sarei dovuto far venire in mente un altro nome. Così mi ricordo che un giorno ero seduto da solo e ho pensato a Eddie Arnold, un vecchio cantante country, e a Vance, che era un personaggio di un film di Elvis Presley, mi pare. Le prime esibizioni degli Avengers di Vance Arnold, cioè Joe Cocker, arrivano nei pub della loro città, nei centri giovanili. Il repertorio è brani di Chuck Berry, di Ray Charles, però sono bravi, cominciano a suonare spesso come band di supporto per gruppi come gli Hollies di Graham Nash, che in quel momento sono molto famosi. Ed è in questo periodo, anche perché loro hanno scelto un repertorio prevalentemente soul, è in questo periodo che Joe Cocker comincia a sviluppare quella voce così rauca, intensa, che poi diventerà il suo marchio di fabbrica. Siamo ancora ai momenti nei quali, anche se ci sono dei piccoli successi, la musica non può sostituire un lavoro sicuro come quello di operaio, anche se ogni tanto Cocker comincia a prendersi le sue prime piccole soddisfazioni. Una delle cose migliori che mi succedeva quando facevo l'installatore del gas era quando entravo a casa di qualcuno e la signora diceva al marito: «Caro, vieni, c'è Vance che ci sta controllando l'impianto». Il falco e il gabbiano. Nel 1963 gli Avengers di Joe Cocker, che per adesso si sta esibendo col nome d'arte di Vance Arnold, mettono a segno un primo grande colpo, perché fanno da supporto ai Rolling Stones a Sheffield. E forse grazie anche a quell'esibizione che Cocker viene avvicinato da un produttore musicale, Mike Lander, che lo aiuta a realizzare una demo, e senza gli Avengers però, una demo da far ascoltare a qualche casa discografica. Il risultato è il tanto sospirato contratto, un contratto con la Decca. Lui realizza un disco con una cover dei Beatles, I'll Cry Instead. L'esibizione è buona, una delle chitarre è suonata da Jimmy Page, però il disco non vende, la Decca rompe il contratto con Cocker e bisogna tornare a fare l'operaio. Però ci vuole molto di più di un insuccesso per spegnere la passione di Joe. E Joe Cocker ci riprova, siamo nel 65, in questa band c'è anche Chris Tainton, un polistrumentista, soprattutto tastierista, che rimarrà con lui sempre praticamente. Il nome è The Grease Band e l'ispirazione viene dopo aver sentito un musicista jazz decantare le virtù di un collega che aveva un sacco di brillantine in testa, e sapete che Grease significa proprio brillantine. Ma il destino della Grease Band non è molto diverso da quello degli Avengers. Suonano nei pub, nei piccoli locali della città, però anche questa volta arriva un produttore, perché stiamo parlando di anni nei quali i produttori andavano nei club a sentire suonare la gente. Questa volta arriva Danny Cordell, che aveva prodotto i Procol Harum, i Moody Blues, e lui porta Cocker e Stanton a Londra, lascia a casa il resto della band, incide un singolo, Margarine, nome, come dicevo prima, molto simile a quello della madre, e Margarine arriva fino al 48esimo posto della classifica inglese, un buon esordio. E poi però arriva un'altra cover, ancora dei Beatles, ancora Jimmy Page alla chitarra, il pezzo è With a Little Help From My Friend, ed è un successo immediato, si va ai primi posti della classifica inglese e il 9 novembre del 1968 addirittura in cima. Ancora adesso è giudicata, insomma, una delle migliori cover mai fatta su un pezzo dei Beatles. Il cavallo di battaglia di Joe Cocker, il brano che ha inciso il suo nome nella storia del rock, e tra l'altro l'ispirazione per l'arrangiamento del brano gli viene in mente in un luogo, insomma, un po' meno glorioso dell'Olimpo. È difficile oggi da credere, ma all'epoca a Sheffield avevamo il gabinetto esterno. Avevo l'abitudine di andare lì e di tanto in tanto ci restavo a meditare. Ricordo che un giorno ero lì seduto a pensare ad un modo per dare un carattere ad una canzone e improvvisamente mi è venuto in mente di fare With a Little Help from My Friend con un coro di ragazze di colore. E quando abbiamo messo insieme la band, questa cosa si è trasformata ancora in qualcosa d'altro. Ma sul momento non mi sono reso conto che sarebbe uscito fuori un arrangiamento così incredibile. Il brano ha un successo enorme, è il passaporto per l'America e Joe Cocker viene invitato a molti festival e poi soprattutto si va al festival di Woodstock, uno degli eventi che ha cambiato la storia della musica, dell'umanità direi, a Woodstock, dove tutti arrivano con l'elicottero perché c'è talmente tanta gente che non si riesce a entrare nell'area del concerto. Cocker viene graziato dal maltempo che imperversò su Woodstock per molte esibizioni e riesce a cantare prima dell'arrivo di un grande temporale. Canta due brani di Bob Dylan, poi uno di Ray Charles, Let's Go Stone, e poi arriva With a Little Help from My Friend. È perfetta, è annoverata tra le grandi interpretazioni di quel festival insieme a Jimi Hendrix, agli Who e a tanti altri. La performance di Woodstock cambia la vita di Cocker e della Grease Band. Arriva il grande successo di pubblico, arrivano soprattutto un sacco di concerti. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando l'epopea e la leggenda di Joe Cocker, uno dei più grandi cantanti che il mondo abbia avuto, con una voce particolare e così tanto imitata. E lui è diventato famoso più per cover di brani di altri che per sue canzoni originali. E cosa strana, ma la sua capacità di reinterpretare la musica di altri era assolutamente unica. Si è preso dei bei rischi perché ha realizzato cover di canzoni che erano già state di grande successo, però lui è riuscito a dare nuova vita a tanti brani. Ci sono brani dei quali è più conosciuta forse la sua versione di quella originale, sicuramente è il caso di With a Little Help from My Friend, è il brano con cui Joe Cocker ha dato il vero inizio alla sua carriera con la sua indimenticabile performance a Woodstock. Stranamente, sin da quando ho iniziato ad ascoltare musica, ho cercato consapevolmente di voler fare una versione diversa di quello che sentivo. Poi, man mano che diventavo più adulto, riuscivo più o meno a creare un nuovo arrangiamento per quasi qualsiasi tipo di canzone. Non esiste un solo format. Di solito mi trovo con la band in studio e cerchiamo una buona chiave di interpretazione. E poi faccio un po' di pasticci fino a quando non trovo un modo originale da cui partire. Per la maggior parte di queste canzoni non cerco di essere migliore dell'originale, perché non si può. Cerco solo di dargli una nuova vita. Un'altra delle cose che ha reso così particolari le performance di Joe Cocker è quella, oltre alla voce, è il suo modo bizzarro di muovere le braccia e le mani, strani gesti, quasi come se fossero insomma dei movimenti un po' da disadattato, sono diventati il suo marchio di fabbrica. E anche qui ci sarebbe una lunga lista di persone che hanno imitato quei gesti. In una puntata del Saturday Night Live l'imitazione è avvenuta in maniera palese e non da un altro cantante, è arrivata da John Belushi che si è messo accanto a Joe Cocker e gli ha fatto il verso. Il momento è stato memorabile, anche se adesso Joe Cocker un po' se ne vergogna. Mi sono rivisto su YouTube e sono rimasto inorridito da me stesso con le mie braccia che si agitano intorno. Credo che sia dovuto alla mia frustrazione per non aver mai saputo suonare il pianoforte o la chitarra. Oggi non mi agito più così tanto, ma credo che sia stato per molto tempo un modo per cercare di buttare fuori le cose. Quando mi emoziono, tutto passa attraverso il mio corpo. Quando torna in Inghilterra, Cocker capisce di essere diventato improvvisamente famoso, capisce che lui, l'operaio del gas, non lo farà mai più. È il suo momento, esce un nuovo album che si chiama Joe Cocker col punto esclamativo finale, è pieno di entusiasmo, le critiche sono positive, ci sono due cover di brani dei Beatles, una è Something e una è una bellissima cover che, come dire, supera in popolarità l'originale, She Came In Through The Bathroom Window. Questi successi lo riportano negli Stati Uniti con un progetto molto ambizioso. Non c'è più la Grease Band, c'è una band formata da una ventina di elementi che viene ribattezzata Mad Dogs e Englishmen. Assieme a Chris Tenton c'è Leon Russell, che è uno dei grandissimi musicisti, pianista e chitarrista, cantautore, che hanno accompagnato Joe Cocker. È un tour che mette a segno 65 date in 56 giorni, successo enorme. C'è un film che documenta questa stranissima carovana. Voi vedete sul palco decine di persone, cani, bambini che giocano sul palco, magari sotto alle tastiere. Era, come dire, un'epopea un po' forse fricchettona, ma fatta da musicisti grandiosi. Però 65 date in 56 giorni mettono a dura prova Joe Cocker, che comincia a bere in maniera incontrollata, comincia a fare uso di droga, insomma si comincia a vedere anche l'altra parte della medaglia della vita di una rockstar. E dopo l'incisione di un album live, un album che viene considerato una delle tappe fondamentali della storia del rock, Mad Dogs e Englishmen, lui torna a Sheffield. La famiglia, felice per sapere di avere un figlio rockstar, però vede un figlio decisamente come dire, a rischio dal punto di vista della salute, e cerca di rimetterlo in carreggiata. Se fossi stato più forte a livello mentale, avrei potuto tenermi lontano dalle tentazioni. Ma a quei tempi non c'erano cliniche di riabilitazione, la droga si trovava facilmente. Così io mi ci sono tuffato dentro a testa bassa. E una volta entrato in quella spirale verso il basso, è stato difficile tirarsene fuori. Mi ci sono voluti anni per arrivare a rigare dritto. E così arrivano anni duri, anni in cui a volte Joe Cocker non è in grado di stare in piedi sul palco per esibirsi. Durante un tour in Australia viene trovato in possesso di una grossa quantità di marijuana, viene perfino arrestato, riesce a lasciare il paese dopo aver pagato la classica multa, viene accusato in Australia di altri crimini. Insomma, con l'Australia avrà problemi a lungo. Quindi c'è la solita dicotomia: nuovi album che raccolgono grandi consensi e per contro sempre più difficoltà per la droga, per l'alcol. Cominciano a fioccare le leggende, una di queste è che Joe Cocker finisse quasi sempre per vomitare sul palco durante le sue performance. Però insomma è un periodo di fatica ma anche di grandi soddisfazioni. Per esempio esce una ballata che ha grande successo, You Are Too Beautiful. Anni 70 segnati da successi, ma anche da un rapporto a doppio filo con l'eroina, con l'alcol, con esibizioni altalenanti. E poi nell'82 c'è un colpo d'ala, un duetto con la cantante Jennifer Warnes. Il duetto diventa la colonna sonora di un film di grande successo, Ufficiale Gentiluomo. La canzone si chiama Up Where We Belong e raggiunge la numero uno nella classifica americana. Arriva un Oscar come miglior canzone originale e insomma si torna sulla cresta dell'onda. E poi c'è un'altra canzone che conosciamo tutti, You Can Leave Your Head On, utilizzata per il film 9 settimane e mezzo, quella che ci ha fatto un po' sognare, insomma, perché era sottofondo durante lo spogliarello di Kim Basinger. E poi nell'87 una nomination ai Grammy Awards, gli Oscar della musica, per un altro grande successo, Unchain My Heart. Insomma, gli anni 80 sono gli anni della riscossa, e quando c'è una riscossa di questo genere, con anche un po' un cambiamento di rotta, spesso insomma c'è dietro una donna che insomma o ha avuto grandi colpi o grandi meriti. In questo caso Pam Baker, la direttrice di un campo estivo vicino al ranch che Cocker aveva preso in affitto, ha un ruolo fondamentale nella vita del nostro, perché i due cominciano a frequentarsi, si sposano nell'87 e in effetti gli anni bui sembrano finiti dietro le spalle, perché lui si trasferisce in America, va a vivere in un ranch in Colorado. E così si abbandonano gli eccessi, la carriera di Cocker comincia a stabilizzarsi, si incanala in un tran tran diverso, quello della superstar, diciamo, adult oriented, magari non più innovativo, ma che garantisce musica di grande qualità. Le sue grandi capacità trovano un impiego in grandi eventi mondiali come il Giubileo della Regina d'Inghilterra, il tributo al 70° compleanno di Nelson Mandela. Insomma, il successo rimane vivo anche se siamo lontani dalla leggenda di performance come quella di Woodstock, che fu capace di cambiare il corso della storia del rock. E il percorso di Joe Cocker si ferma il 22 dicembre del 2014, dopo aver fumato per anni 40 sigarette al giorno. Un cancro ai polmoni interrompe la sua storia. Paul McCartney lo ricorda così: era un bravo ragazzo del nord, lo amavo molto e amavo il suo modo di cantare. L'ho conosciuto negli anni come un buon compagno e sono stato così triste quando ho saputo della sua malattia, e ancora più triste di sentire oggi che è morto. Era un grande ragazzo, un bravo ragazzo, che ha dato così tanto al mondo e tutti noi ne sentiremo la mancanza. Joe Cocker in questo momento ha volato così in alto da andare molto in alto, lassù in cielo, però ha lasciato grandi ricordi, ha lasciato grandi performance, e diciamo che dal Festival di Woodstock in avanti ha preso e ha tenuto stabilmente il posto nell'Olimpo delle grandi rockstar, anche se naturalmente, come quasi tutte quelle rockstar, ha pagato a caro prezzo più volte la sua battaglia artistica. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabiano@radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci, abbiamo dei bellissimi social del Falco e il Gabbiano, e poi ci sono anche i miei personali, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Filiasi, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.